giorni che il cuore non dimentica, c'è il sole, fanno ridere, o piove, sono lacrime, e nascono emozioni che diventano sentimenti, e te li senti addosso, sulla pelle o dentro il petto, e tu li chiamerai gioia ed allegria, e se piangerai tristezza e nostalgia, rabbia e delusione, se ti stringere il cuore poi ti accorgerai che c'è qualcosa di più che rende tutti uguali, che non rispetta mai le leggi naturali, la tua coscienza interiore, la vita, l'amore. Ci sono giorni che la mente non dimentica, perché lasciamo un segno di proprio dove nasce il sogno, e nascono ricordi, si moltiplicano gli eventi, periodico riflesso di un ritmico pregresso, e li ricorderai con gioia ed allegria, e se piangerai tristezza e nostalgia, rabbia e delusione, se ti stringere il cuore poi ti accorgerai che c'è qualcosa di più che rende tutti uguali, che non rispetta mai le leggi naturali, la tua coscienza interiore, la vita, l'amore. E non avere paura, l'anima non è età, anche se fa tremare lui non si fermerà, il tempo è come una mossa che ti stringe il cuore, se ti arrenderai sai c'è qualcosa di più che rende tutti uguali, e non rispetta mai le leggi naturali, la tua coscienza interiore, la vita, l'amore. E non avere paura, l'anima non è età, anche se fa tremare lui non si fermerà, il tempo è come una mossa che ti stringe il cuore, se ti arrenderai sai c'è qualcosa di più che rende tutti uguali, che non rispetta mai le leggi naturali,